24 mattino, estate, di Gigi Donelli. 7:15 e 15 secondi, buongiorno a tutti, un saluto da Gigi Donelli, da Peter Bescapè, da Alessandro Longoni questa mattina per lo spazio dedicato appunto a 24 mattina. Parliamo di cultura tra qualche tempo, tra circa un'ora, nel nostro spazio dedicato agli incontri, alle idee, alle proposte. Parliamo di cultura che paga, cultura che in alcuni casi funziona anche nei momenti di crisi, cultura che diciamo tanto spesso quanto possa rappresentare sia di fatto uno dei grandi asset, delle ricchezze del nostro paese, ma intorno alla quale emergono poi tutte le difficoltà, le lacune, le complessità anche nella gestione dei sistemi museali da una parte, il sistema delle grandi mostre. Oggi, ricordiamolo, siamo anche alla vigilia poi delle giornate di Venezia, quindi il festival, la mostra del cinema, che rappresenta di sicuro uno dei grandi momenti di incontro intorno alla cultura cinematografica, multimediale del nostro calendario. Insomma, tutto questo più tardi. Avremo con noi anche un regista veneto molto noto e apprezzato, regista e sceneggiatore, visto che nella sua carriera c'è spazio anche appunto per lavoro con altri registi, Carlo Mazzacurati, che reduce da un'avventura tutta particolare, dalla costruzione di un documentario africano intorno a un gruppo di medici italiani appunto al lavoro con l'Africa, come racconta il documentario appunto Medici con l'Africa. Parleremo di questo, parleremo poi dei buoni dati che ci sono arrivati nel corso della settimana dalle presenze, quindi i numeri delle presenze nei musei italiani. Con noi ci sarà il soprintendente al Polo Museale di Firenze, Cristina Cidini, altri ospiti per capire appunto quanto ancora sia possibile costruire intorno a questi grandi poli, che poi di fatto sono dei cantieri, sono dei luoghi in costruzione e trasformazione, sono assolutamente dei grandissimi motori economici per le città. Vedremo, sentiremo che questo ragionamento regge anche quando si tratta di mete molto, diciamo, meno famose, importanti in termini assoluti rispetto a quello che può essere Firenze. Insomma, in un'Italia dei mille campanili, è anche questo un paese delle migliaia di piccoli musei e di piccoli luoghi da visitare che, quando vengono sostenuti, stimolati opportunamente anche dal territorio, dall'amministrazione locale, diventano davvero dei piccoli poli d'attrazione. Tutto questo, dicevo, a partire dalle 8:20 circa. Ora andiamo a vedere, come di consueto, la nostra edicola. Eccoci qua, Germania e USA, segnali di frenata, è l'apertura di oggi, di questo venerdì 24 agosto del Sole 24 Ore. È ultimo avviso da Merkel e Hollande. Abbiamo seguito nel corso della settimana le interviste diffuse ampiamente dal premier greco Samaras sui quotidiani tedeschi, premier greco che di fatto da un lato rassicurava sul fatto che i debiti sarebbero stati pagati, ma che chiedeva tempo. Qui la risposta, ultimo avviso da Merkel e Hollande, l'incontro è quello di ieri, appunto, della cancelliera tedesca e del presidente francese, che dicono la Grecia resti nell'euro ma faccia le riforme. La locomotiva tedesca intanto rallenta, l'indice PMI dei servizi ha registrato ad agosto una contrazione inconsueta da 50-48 punti rispetto ad attese di stabilità. L'indice manifatturiero tedesco segna la sesta contrazione mensile consecutiva. Segnali negativi purtroppo arrivano anche dagli Stati Uniti. Le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono lievitate di 4.000 unità a 372.000. Un'altra misura, un altro dato, questo in particolare, che accende preoccupazione, sottolinea la preoccupazione, in particolare poi avremo modo di vederlo anche sul fronte interno, sul fronte elettorale. Ormai siamo

l'attesa di Kasia Smutinak, il ritorno di Kasia, ora so riconoscere la fortuna e la felicità. L'attrice polacca sarà infatti la madrina della mostra. Da madrina racconta, prepara un discorso breve, ma il terrore del palcoscenico. Ricordo una tragica conduzione con le Iene, una conduzione a tre con Ilaria Blasi e Elisabetta Canalis, loro belle spigliate, io scordinata nel pallone, ho finto il mal di pancia per evitare gli stacchetti, ora so che non andrò mai a Sanremo, dice. E intanto il cinema italiano, che se vuole sopravvivere deve diventare più cattivo con il potere, è una citazione di una intervista che Sette realizza a Francesca Comencini, con un giorno speciale in concorso alla mostra. Insomma, il cinema, da qui ripartiremo proprio dalle 8:20, grandi film, grandi attori e protagonisti, ma anche tutta quella attività che riguarda la documentaristica, gli incontri, insomma una grande manifestazione culturale che coinvolge migliaia naturalmente di registi addetti ai lavori, coinvolge direttamente la cultura italiana. L'appuntamento che abbiamo intorno alle 8:20 con Carlo Mazzacurati, che ci racconterà come da Veneto scopre attraverso il suo lavoro anche una comunità che dalle parti della sua Padova si dà da fare da anni ormai per sostenere la crescita sanitaria nei paesi africani. Tutto questo però a partire circa dalle 8:20. Ora è tempo di passare la linea a Peter Bescapea, GR24. A più tardi. 24 mattino, estate. Eccoci qua ancora, un buongiorno cari ascoltatori. Dunque, l'avete sentito anche dalla rassegna stampa, ci sono già segnali che ci portano verso Venezia. Venezia è il cinema, Venezia sono naturalmente le star, Venezia sono anche come dire, una città intera che si muove intorno agli schermi grandi, più o meno grandi, per i Colossal, ma anche per tutta una produzione documentaristica e di film, insomma quei film che poi rendono anche il senso stesso dei festival, perché magari non è che poi si vedano appunto nelle sale. E allora ci sono anche dei momenti in cui dei registi famosi si dedicano, anzi tornano a dedicarsi a quello che è il documentario, magari per raccontare delle storie cresciute molto vicine a loro stessi. Questa mattina con noi Carlo Mazzacurati, grazie innanzitutto di essere qui. Grazie a voi, buongiorno. Allora, Mazzacurati che racconta una storia di medici in Africa, che quindi l'ha portata lontana dal suo territorio veneto, che tante volte ha raccontato nei suoi film. Sì, è vero. Infatti è stata anche un'esperienza molto particolare. Io non sono un grande viaggiatore, diciamo la verità, però l'incontro con queste persone a Padova è stato talmente così appassionante che per me è stato proprio una necessità andare a fondo. Ma è un lavoro così, direi, fatto senza una programmazione, senza nemmeno, diciamo, una struttura pensata prima, fatto molto d'impeto. Io ho seguito l'istinto, ho seguito le sensazioni che mi davano gli incontri con loro e sono partito con una piccola troupe, con Luca Bigazzi che mi ha aiutato, ha fatto le riprese, con Luan Amelio che ha fatto la seconda macchina, con un fonico che si chiama Alessandro. E niente, e siete quindi partiti per l'Africa. Essenziale, ecco, diciamo. Loro e sono il QAM di Padova, prego. Quindi un'organizzazione che da decenni ormai si occupa di medicina sì, sociale in Africa, e la destinazione sì, è stata il Mozambico. Mozambico. Ecco, sì, quando c'è stato il contatto all'inizio, insomma, quando ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti con le persone del QAM a Padova, ecco, ammetto, per così dire, di essere stato così, insomma, abbastanza toccato, anche per il fatto che io non conoscevo l'esistenza del QAM, nonostante sia della mia città, insomma. Certamente, diciamo, al 95% è responsabilità mia questa mancanza, però ho pensato che il 5% dipende un po' anche dal loro stile, che è uno stile di understatement totale. Si sa poco che esistano in Italia e non si sa quanto lavoro incredibile fanno in tanti paesi dell'Africa, per cui insomma ho sentito un po' quasi, si potrebbe dire, il dovere, ecco, di fare questo lavoro che documenta uno dei tanti paesi in cui loro lavorano, le persone che sono lì, le loro giornate, i loro dubbi, i momenti di gioia, anche di ironia, ecco. Prima di tornare ai protagonisti, volevo chiederle di darci un'immagine del set. Noi siamo abituati in molti suoi lavori a un territorio che è quello veneto, magari alle nebbie, magari ai corsi d'acqua. Ecco, che cosa ha trovato, in che set si è trovato ad operare in Mozambico? Diciamo uno scenario del tutto nuovo per me, dove ovviamente a un primo sguardo prevale immediatamente una forte sofferenza da una parte, una grandissima vitalità. È un paese di ragazzi, ecco, questa è la prima cosa che ho percepito scendendo proprio e camminando in mezzo alle persone. Abituato all'Italia, no? Che è prevalentemente un paese di anziani, insomma, a cui non pensiamo, perché è il nostro mondo e è quello a cui, insomma, a cui siamo abituati. Ecco, il primo impatto con l'Africa è di capitare in mezzo a una popolazione di adolescenti, e già questo ti colpisce moltissimo. Pieni di gioia, di vitalità e anche di improvvise, come dire, situazioni complicatissime, ma questo insomma è quello che sappiamo. Ma ecco, quello che a me interessava soprattutto era però, e questo l'ho maturato nei giorni mentre appunto incontravamo le persone, facevamo le riprese, di trasmettere anche questa grande vitalità. Di solito, diciamo, il documentario sull'Africa è un genere molto drammatico che ti sbatte in faccia numeri, numero di morti, miseria, eccetera. Tutto questo è inevitabile, fa parte insomma del racconto di una realtà così. Però in questa storia, che è molto mediata dalla presenza di questi particolari esseri umani, molto molto molto speciali, che sono insomma questo gruppo di medici, uomini e donne, che operano nell'area di Beira in Mozambico, credo che ci sia anche la loro umanità. Quindi ecco, credo che il pubblico, guardando, si senta meno lontano, meno incapace di poter essere, come dire, di sostegno in qualche modo, perché magari appunto pensa: io non posso fare così, non è nelle mie possibilità. Ecco, si incontrano delle persone molto semplici che ti dicono: sono in Africa non perché sono un eroe, ma perché magari in Italia facevo fatica a fare il mio mestiere per il mio carattere. Con, insomma, molto, molto speciali, molto particolari. Ecco, Mazzacurati, è il racconto di una serie di persone, Maria, Luigi, Antonio, che sono lì, e le loro, ripeto, giornate, quando si incontrano la sera, i pensieri che fanno, e anche il gioco dello stare insieme. Quindi c'è anche molta ironia, ecco, in questa storia. Mazzacurati, lei è andato in qualche modo, sembra, fino in Mozambico per scoprire una parte importante della sua città, della cultura, anche di questo Veneto che è tanto, come dire, contraddittorio su certi temi, e che custodisce poi delle perle come appunto il QAM e l'attività che fa. Ecco, e ho pensato che proprio per quello che sta dicendo lei fosse proprio indispensabile che questa storia venisse raccontata, perché rappresenta appunto un lato sorprendente per certi aspetti, se pensiamo ai luoghi comuni con cui mediamente viene descritto il nord-est in particolare in questo tempo. Insomma, immagino una bella soddisfazione che ora sbarca al Festival di Venezia, proprio questo, in questo, diciamo, contesto di attori, di appunto di jet set quasi. In realtà ci sta proprio bene, pellicole come queste sono quelle anche, credo, che diano una grande dignità poi a questi festival. Che cosa si aspetta dallo sbarco a Venezia, dal ritorno per lei ovviamente? No, io sono molto contento di questa opportunità che il festival ci ha dato, perché penso che sia un'occasione per far conoscere il QAM, chi sono, come sono fatti, come lavorano, che storia hanno. Ecco, questo già per me è un fatto di grande soddisfazione. Poi, voglio dire, tutto quello che viene in più è regalato, insomma è un'occasione, noi non pensavamo neanche, insomma l'abbiamo fatto vedere così perché appunto si sperava che potesse essere un luogo dove poter parlare di questa loro iniziativa, della loro storia, ma ecco, questo prevalentemente, non vorrei dire quasi, insomma, un'occasione un'occasione, ecco, per comunicare attraverso naturalmente una storia, delle emozioni, perché di questo si tratta, è comunque, insomma, un film, ecco. Un film sicuramente, perché questo è evidentemente il lavoro di Carlo Mazzacurati, perché questo è la mostra di Venezia che, come abbiamo detto, sentito anche questa mattina, insomma si scaldano davvero i motori per il 29, dunque per la prossima settimana. Questo documentario sarà presentato proprio nel primo giorno della mostra, naturalmente un catalogo ricchissimo, sul web trovate tutte le informazioni, ma che troverete e trovate come aggiornamento costante anche nei nostri GR dedicate alla cultura. Grazie dunque a Carlo Mazzacurati. E con l'apertura della mostra del cinema, vi segnalo però in questo caso segnalandolo dal Gazzettino, quindi il quotidiano che il Nord-Est copre con particolare attenzione, dicevo, l'apertura della mostra del cinema è alle porte, ma insieme alle star arrivano anche gli agenti della Guardia di Finanza. Il loro compito sarà quello di eseguire controlli sulla regolarità dei rapporti di lavoro e sulla ricettività turistica, così spiega la Guardia di Finanza di un'attività che viene svolta ogni anno e che l'anno scorso ad esempio aveva portato ad accertare alcune affittanze regolari a turisti ospitati senza alcun contratto, un settore che si interessa sia di hotel di lusso, sia dei piccoli affittacamere, passando per i bed and breakfast. Ecco, la nota della Guardia di Finanza però aggiunge: particolare attenzione sarà riservata anche a vigilare sulle regolarità dei rapporti nel settore commerciale, dunque sui bar, altre attività che magari aprono esclusivamente nei giorni della mostra. Un ambito, spiega la finanza, che facilmente a volte porta ad utilizzare il lavoro nero per coprire un'improvvisa temporanea crescita della domanda di servizi. Dunque anche questo è il festival, anzi la mostra del cinema di Venezia. Prima in rassegna stampa vi segnalavo e ve lo ricordo, quest'anno la madrina sarà l'attrice polacca però da tempo ormai in Italia, Kasia Smutinak, 33 anni, che dice appunto, anticipa nell'intervista che oggi rilascia su Repubblica, la grande paura di essere su quel palco, naturalmente anche la grande emozione di un evento di questa portata. Bene, intanto abbiamo fatto le 8:29 minuti 50 secondi, è tempo di sentire insieme gli aggiornamenti sul fronte del meteo, poi continuiamo a parlare di cultura. Abbiamo dato spazio al cinema, lo facciamo sui musei, sono stati diffusi dei dati interessanti rispetto a questo agosto che abbiamo più volte sottolineato ha visto una presenza magari forzata di più italiani nelle città. Dunque, cosa fare durante il mese di agosto, come occupare le giornate? Beh, sicuramente in un paese con un patrimonio culturale come il nostro l'offerta in realtà è molto ampia. Allora ripartiamo dai dati per parlare di musei tra poco, adesso però gli aggiornamenti sul fronte meteo. 24 mattino, estate. Com'è stata dunque la vostra estate sul fronte della cultura, dei musei? Avete avuto occasione di visitare, scoprire, ritornare su alcuni dei luoghi appunto in che l'Italia per fortuna offre generosamente luoghi di cultura, luoghi di anche di svago, di divertimento attivo, attivo che appunto ci permettono di trascorrere anche in queste, se vogliamo, situazioni un po' forzate in cui la presenza nelle città è più forte. Insomma, avete avuto delle occasioni da segnalare quest'estate? Se avete voglia, fatelo al numero verde all'800 24 00 24, ai nostri sms, il 349 238 6666. A proposito, proprio sul fronte sms, Massimo con tre punti esclamativi, anzi due, dice: come ha detto ex allenatore della Juve Conte, per Bacco chiedo Vegna, Conte è allenatore della Juve e Massimo ha ragione. Ma dunque, musei e cultura, a quanto pare quanto accaduto nel corso di questo mese di agosto, almeno sul fronte dei musei, ci porta dei dati positivi. Infatti i dati forniti dal MIBA, quindi dal Ministero, a Ferragosto parlano di complessivamente di quasi il 5% in più degli ingressi, 16% in più degli introiti, con alcuni luoghi, alcuni poli, alcuni luoghi appunto di visita che hanno fatto segnare addirittura aumenti per il giorno di Ferragosto del 70, 80, 200%. Bene, uno di questi luoghi per eccellenza del nostro patrimonio culturale è sicuramente sono gli Uffizi a Firenze. Questa mattina con noi, la ringrazio di essere con noi, è Cristina Acidini, è storica dell'arte, scrittrice, è sovrintendente del Polo Museale Antropologico di Firenze e della Galleria degli Uffizi. Buongiorno intanto. Insomma, è stata una buona estate, o il dato del 15, come dire, si ferma lì? Questi dati sono sempre un po' da, come dire, da soppesare. Il dato, come ho detto, per gli Uffizi parla di un aumento del 76 e dell'85,5%, ma per il 15 agosto, ma lo possiamo estendere alla stagione? In realtà i dati sono, come lei diceva, piuttosto complessi, e il primo semestre di quest'anno non era stato particolarmente incoraggiante. Direi che il picco di affluenza si è registrato nei tre giorni di Ferragosto, il 14, il 15, il 16, che hanno visto affluire all'intero polo museale fiorentino, che comprende 24 musei, visitatori mediamente nel 30% in più rispetto all'anno precedente. E circa il 30% ha riguardato anche gli Uffizi, mentre hanno fatto balzi davvero da giganti complessi, monumentali e museali come la Galleria Palatina e la Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti, che hanno incrementato i visitatori del 60% e passa. Quindi grande concentrazione, il che come dire, va bene, ma da un lato per chi poi gestisce un polo delle dimensioni appunto del vostro, è anche un elemento di preoccupazione, o sbaglio, la concentrazione proprio dei flussi in poche giornate. Sì, in questo ha perfettamente ragione, perché si verificano fenomeni di affollamento che sarebbe opportuno invece poter diluire, ma si sa che le dinamiche delle vacanze e delle visite, in questo caso culturali, collegate alle vacanze, appartengono alla decisione individuale, è difficile modificare certe assolutamente come ci si adatta a queste continue anche cambiamenti proprio di comportamenti da parte di chi appunto magari è costretto più in città, magari di chi concentra le vacanze in poche giornate, anche al cambiamento dei flussi turistici che arrivano dall'estero. Anche questo sì, segue degli andamenti che è difficilissimo prevedere e a cui, come lei dice, si può solo far fronte grazie alla disponibilità del personale nostro e del personale di supporto ed accoglienza, e cercare di rendere le eventuali attese il più piacevoli possibile. Però è anche c'è un dato interessante che ho esaminato con attenzione. Sono state molto frequentate anche le ville medicee, che sono piccoli tesori ma in realtà sparsi nel territorio, quindi lontani dal centro di Firenze, che hanno visto raddoppiare i propri visitatori. Quindi significa che si sono anche dedicati molti a visite del territorio, affiancando alle visite nei musei importanti e noti anche delle mete meno scontate e più ricercate. Insomma, si continua, diciamo, a sviluppare, a superare il bersaglio necessariamente più grosso. È ovvio che se uno viene in Toscana, insomma, non può non essere spinto dall'entrare in questo forziere formidabile che è il sistema museale, però intorno c'è tutto un mondo da esplorare. Da questo punto di vista, i grandi lavori anche che appunto il Polo Fiorentino gli Uffizi hanno fatto, avete fatto nel corso degli ultimi anni, se non sbaglio a giugno ci sono state anche aperture di nuove sale, in che modo possono poi proiettarsi sul territorio nel suo insieme? E credo che abbiano una formidabile capacità di attrazione, mi sentirei di dire che chi è venuto agli Uffizi sia stato anche incoraggiato e incuriosito da quei nuovi lavori che lei ricorda, l'apertura di oltre 10 sale nuove con interamente allestite, il restauro che ha reso la tribuna uno scrigno meraviglioso da ammirare, quindi forse anche, ci piace crederlo almeno, c'è stato un moto di curiosità che poi si è riverberato e allargato una volta che uno decide di venire a Firenze e naturalmente gode, non dico tutte, ma molte delle opportunità di visita culturale che la città offre. La consapevolezza che la cultura sia davvero un motore economico si è affermata, ne abbiamo parlato tanto, però poi periodicamente anche quest'anno il Sole 24 Ore ha avviato proprio una campagna, in sostanza niente cultura, niente sviluppo, cioè la cultura come motore, e Firenze evidentemente è un caso esemplare in questo senso, ma persino a Firenze in passato ci sono state anche, come dire, delle forme di resistenza o quasi di resistenza appunto alla complessità di un mercato culturale che cambia. Oggi, a fronte della crisi che investe poi il sistema nel suo complesso, dottoressa Cidini, le sembra che questi punti almeno siano superati? C'è la piena consapevolezza del valore della cultura nel nostro paese? Io le ringrazio per mettere l'accento su un punto importante e controverso. Il nostro paese è una grande e variegata realtà che, per storie che conosciamo bene, risponde diversamente alle stesse domande da un luogo all'altro. E dunque mi piacerebbe dire che c'è una sensibilità diffusa, ma certamente si può fare ancora molto. Quello che riguarda la situazione che conosco meglio e che con tanti colleghi ho nelle possibilità di gestione, vorrei sottolineare che nessuno di noi è più, semmai lo è stato, uno studioso sognatore. Siamo dei gestori di strutture importanti che hanno centinaia di dipendenti e anche giri d'affari, se così le vogliamo chiamare, significativi. Quindi siamo non solo attentissimi alla economicità ed efficacia della nostra azione, ma anche all'indotto che può generare e al rapporto col privato che si esprime in moltissimi modi e su moltissime iniziative. Insomma, grandi gestori di culture, inevitabile a lei una domanda. In questi giorni c'è un dibattito che si concentra su Milano, ma riguarda la cultura del paese, i privati a Brera, il fronte del no, cioè il ruolo che i privati possono avere all'interno del sistema dei grandi musei, delle grandi istituzioni culturali italiane. Qual è il punto d'equilibrio a suo avviso? Molto mobile, molto difficile da raggiungere. Certamente l'ingresso dei privati è un fatto già avvenuto e la loro presenza può essere risolutiva per i tanti problemi del sistema cultura Italia. È anche vero che ci sono capisaldi, i musei di Stato che nascono come tali, che sono punti di orgoglio nazionale, che vanno in ogni caso mantenuti in questa loro natura. Mantenuti, senz'altro, conservati all'interno di quello che è il patrimonio nazionale. Vorrei salutare questa mattina, come state ascoltando, Cristina Cidini, soprintendente al Polo Museale di Firenze, che come ci ha ricordato all'inizio non è solo, che già sembra appunto, è difficile a dirsi, gli Uffizi, ma è un sistema di un'enorme complessità che si irradia nella città, appunto in uno dei grandi punti di riferimento della cultura mondiale, ma la cultura, i musei, i dati ci portano in alcuni luoghi anche magari molto lontani. Allora io saluto questa mattina con noi anche Paola Maria Ricciardelli, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Che da Avellino, dalla provincia di Avellino, ci racconta magari anche di una realtà diversa, minore, molto minore rispetto a Firenze, non è imbarazzo per nessuno a dirlo, il parco archeologico di Eclanum, Mirabella Eclano. Il nostro è un paese fatto appunto di grandi poli e di una cultura diffusa. Quest'estate voi registrate dei dati positivi che parlano di, ieri lei mi ha spiegato, è una bella soddisfazione avere 1.000-2.000 persone al giorno. Allora, innanzitutto ci dica in due parole che cos'è Eclanum. E Clanum è stata l'antica colonia romana che è nata appunto alla fine del III secolo avanti Cristo, come in precedenza era un insediamento sannitico, situata nella media valle del Calore, la cui posizione favorevole ha permesso una lunga frequentazione, quindi anche la nascita di questa città. Si può dire che in passato era un punto di transito lungo le grandi vie tra Roma e l'Adriatico. Attraversata sì dalla Via Appia. La Via Appia è la strada più importante dell'Italia appunto meridionale, che attraversava il cuore dell'Irpinia. È praticamente questa antica città ha un momento di grande massimo splendore nel secondo secolo d.C. in età adrianea. Insomma, un luogo appunto di cultura romana, se vogliamo, in sé di certo non sono elementi non presenti nella nostra storia, ma sicuramente che noi stessi poco conosciamo. E Clanum è un luogo che, dicevamo, quest'estate registra dei dati più 200%, certo i numeri, lo ripeto, sono completamente diversi. Come si arriva anche a far crescere i numeri di realtà culturali più piccole? Che sforzi si fa? Che mezzi ci sono? Lavoriamo molto sul territorio, aiutandoci, partecipando a tutti gli eventi che innanzitutto ci propone il nostro ministero. C'è un ricco calendario annuale che il Ministero, il MIBAC, propone da gennaio a dicembre, a cominciare dalla festa degli innamorati, la festa della donna, la notte dei musei, quindi il Ferragosto, le giornate europee del patrimonio, la giornata della musica, quindi tutti appuntamenti che ci permettono di organizzare appunto nel nostro piccolo degli eventi, delle manifestazioni che oggi sono il veicolo principale per ovviamente attirare e promuovere. Ecco, il nostro punto forza è soprattutto la promozione, visto che la nostra realtà non è così nota come la Galleria degli Uffizi, siamo noi che dobbiamo continuamente giocare e muoverci su questo fronte. La promozione è il nostro lavoro più forte che abbiamo, perché poi per quanto riguarda le possibilità, le risorse sono le nostre, sono minori logicamente. Certo, sono piccole. Contributi, e ci aiutiamo veramente con le associazioni culturali, gli enti locali come il Comune ed altre associazioni, le dicevo ieri anche il FAI quando ci chiede... Insomma, la rete, i contatti, il sostegno e anche, immagino, una buona dose di fantasia che non guasta. Grazie, dottoressa Ricciardelli. Allora, alle 8:47, sentiamo subito gli aggiornamenti per chi è in viaggio, poi torniamo a parlare di 24 mattino, estate. Avellino tappa tra Roma e l'Adriatico, chiede Camillo. Sì, esattamente, tra Roma e l'Adriatico, appunto la via romana. Allora, forse abbiamo ancora con noi Paola Maria Ricciardelli, se non sbaglio è un punto proprio di bivio dopo Benevento, due grandi vie romane, una delle quali attraversa proprio e alimenta l'abitato di Eclanum. La fortuna, il dato appunto che ha permesso lo sviluppo di questa città, antica città, è stata, ripeto, la sua posizione centrale all'interno dell'Irpinia. Naturalmente questo ha fatto sì che la Via Appia, che era appunto la strada che dovesse attraversare l'Italia meridionale per tenere sotto controllo appunto questa parte delle conquiste romane. Voi sanniti, insomma. O sbaglio? Prego? I sanniti. Già Appunto, no, nel periodo poi romano è stata costruita la... Certo, ma voglio dire, il popolo però, da controllare chi era in questione? Nel periodo sannitico, sì, ecco. Sì, sì. L'antica Eclanum già nel toponimo. Quindi sono strade che naturalmente non corrispondono oggi alle nostre reti, allora così rassicuriamo gli ascoltatori, ma che invece hanno disseminato un patrimonio culturale formidabile. A proposito di cultura, ringrazio Paola Maria Ricciardelli, lo ricordo che appunto... ci ha portato anche in una realtà che è così distante dai grandi poli e nello stesso tempo, come abbiamo sentito anche da Cristina Cidini, è proprio uno degli aspetti, cioè usare i grandi poli per poi irradiare, diffondere, moltiplicare gli eventi culturali, le possibilità sul territorio. Stamattina con noi anche il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello, buongiorno. Buongiorno. Tutto questo perché la cultura paga, lei così ha detto ieri al Festival di Rimini, a Rimini. Ecco, in che senso la cultura paga? C'è davvero mercato? Io vorrei sfatare un attimino un mito che di cultura non si mangia, come qualcuno in qualche modo va a immaginare o pensare, ma la cultura oggi è assolutamente uno dei grandi settori economici della nostra proposta a livello nazionale e a livello internazionale. Noi abbiamo un settore economico che si occupa di cultura, che conta quasi 900.000 imprese, che dà lavoro quasi a 1,5 milioni di occupati, che sta dando oggi delle risposte positive anche sul termine occupazionale. In tempo di crisi. In tempo di crisi come il nostro, nelle previsioni che noi stiamo facendo insieme al Ministero del Lavoro, con le nostre indagini di Excelsior, prevederemo addirittura nei prossimi mesi, mentre altri settori economici sono in preoccupante diminuzione, ulteriori assunzioni per quanto riguarda l'industria culturale nell'accezione più ampia, ecco, non soltanto parlare di musei o di realtà di questo tipo, ma la cultura nell'accezione più ampia del nostro paese, quella che, come dicevo prima, probabilmente un attimino sottostimata. E creeremo, credo, le condizioni per dare a tanti giovani culturalmente preparati, perché credo che assolutamente deve essere questa anche la posizione culturale di chi vorrà trovare posti di lavoro in questa direzione, l'opportunità di mettere in moto di nuovo opportunità, esperienze, per ridare voce, io credo, a questo nostro paese, che sotto questo profilo può contribuire, e questo settore economico certamente, a rimettere insieme meccanismi positivi, quelli che in qualche modo tutti noi prevediamo di vedere alla fine di questo tunnel così tanto nero, ma alla fine del tunnel c'è sempre quella luce del giorno dopo, nella quale noi siamo convinti di poter in qualche modo procedere. Ma insomma, quella luce va costruita, no? Va costruita in queste fasi. Torno da lei tra un secondo, vorrei chiedere ancora una cosa alla dottoressa Cidini, a proposito di giovani, il nostro, diciamo, grandi sistemi, grandi poli, in che modo riuscite a costruire anche attraverso queste grandi strutture, che poi, voglio dire, l'elenco è quasi sterminato. Invito gli ascoltatori ad andare anche sul sito della Galleria degli Uffizi, i poli museali fiorentini, mi riferisco ai lavori di restauro, mi riferisco alle specializzazioni. In che modo riuscite a essere anche centro di formazione per i giovani che poi entrano in questo settore? Per i giovani le offerte sono molteplici e vanno da quella meramente attrattiva, che tuttavia rappresenta una sfida, perché i giovani vengono fino a che sono, diciamo, all'interno della scuola, dopo devono venire per libera scelta e quindi devono essere anche incoraggiati con occasioni speciali, eventi a carattere spettacolare, musicale, teatrale, anche delle occasioni un po' speciali come gli aperitivi, che in un certo giorno alla settimana e dalle 19 in poi sono fruibili in luoghi d'eccellenza. E poi naturalmente l'offerta formativa, che oltre a rivolgersi alle scuole si rivolge anche alle famiglie attraverso programmi specifici che consentono un ingresso più ravvicinato, più soddisfacente, immaginiamo noi, a contatto con l'opera d'arte. Lei che ha esperienza, appunto, che conosce a menadito questo ambito, sta vedendo da parte dei giovani italiani, non solo come fruitori, ma proprio come proiezione al mondo dell'arte, della cultura, della struttura museale per un lavoro, cioè i giovani italiani pensano che possa essere una possibilità per, appunto, per il loro lavoro futuro? Sì, lo pensano, e in quella speranza e in quella prospettiva anche molti scelgono il percorso formativo all'università, o in corsi, diciamo, che li avvicinino per esempio attraverso il restauro. C'è un problema, cioè dopo che per tanti anni si è detto e si continua a ripetere che abbiamo un paese ricchissimo di opportunità di sviluppo nel settore culturale, che ci sono tante necessità, nessuno in realtà fa molto per dare dei posti di lavoro in quel senso. Non il settore pubblico, che ha visto bloccarsi il turnover del personale ormai da decennio, e non nel privato, dove si assumono con contratti atipici per progetti in maniera molto difficile e occasionale. Quindi credo che ci sia una contraddizione tra i tanti giovani che sono preparati e desiderosi di operare nel campo culturale e le opportunità molto ristrette che le vengono offerte. Che vengono offerte poi della realtà. Dardanello, quali competenze sono chieste dall'industria culturale? L'industria culturale non soltanto di carattere museale, come in qualche modo certo. Stavo ascoltando, ma io dico nell'ambito più complessivo e generale, le professioni culturali più richieste, innanzitutto ancora una volta qui si parla di lauree in modo specifico per quanto riguarda l'ingegneria. Si cercano in modo in particolare analisti, progettisti di software, questi sono quelli più richiesti in questo momento, e poi anche lauree in termini tecnico-amministrative e logicamente anche culturali, con le solite tradizionali lauree in questa direzione. Cioè lei le mette addirittura al terzo posto, nel senso che la richiesta è di ingegneri della cultura. Ma più sempre, forte oggi tecnologia e tutto quanto in qualche modo la cultura nella sua complessità va a richiedere, oggi è sicuramente al primo posto in senso assoluto la laurea in ingegneria, e anzi proprio l'industria della cultura, proprio perché spesso sono culturali, hanno bisogno di alte professionalità riccamente formate in questa direzione. Ma io vorrei anche solo ricordare che cos'è oggi nel nostro paese l'importanza della cultura per quanto riguarda il PIL del nostro paese, per quanto riguarda il nostro export. Bene, probabilmente nessuno di noi lo immagina, ma il settore della cultura ha lo stesso valore aggiunto della finanza e delle assicurazioni, e non solo, ma occupa addirittura il doppio di personale in questi settori. E nell'anno appena trascorso, nel 2011, pensate, l'export della cultura ha superato addirittura i 38 miliardi di euro, recuperando il livello interiore anche alla crisi internazionale e dando un contributo al nostro export addirittura superiore a settori come la meccanica o ai mezzi di trasporto. Quindi ogni tanto noi non dobbiamo sorprenderci quanto questo settore può essere e deve essere e sarà per un paese come il nostro assolutamente uno dei motori più importanti per costruire non solo la nostra crescita, ma per dare tante opportunità a tanti giovani che in questo mondo, nella sua complessità, e la cultura vuol dire anche cultura del nostro paese, cultura della nostra storia, cultura delle nostre tradizioni, cultura delle nostre produzioni, è questa l'accezione ampia dal quale noi partiamo, ma per poter veramente costruire di nuovo una ripresa che vedo prossima assolutamente, perché noi abbiamo qualcosa che nessun altro ha, che nessun altro dispone, e se abbineremo la qualità delle cose che facciamo al patrimonio culturale che noi disponiamo, io credo che veramente avremo un valore aggiunto dal quale poter fortemente ripartire. Grazie a Ferruccio Dardanello, ricordo presidente di Union Camere. Niente cultura, niente sviluppo, era un titolo del Sole del marzo scorso, un titolo che non solo è pienamente condivisibile, ma avete sentito anche i dati, i numeri, la portata di questo che è appunto l'industria culturale italiana. Grazie a Cristina Cidini, lo ricordo, il soprintendente al Polo Museale di Firenze, un cantiere, una evoluzione continua e non dimentichiamolo, anche con i Musei Vaticani di fatto il nostro perla nella classifica dei musei più visitati d'Italia. Abbiamo raggiunto la conclusione, non mi resta che ringraziare Alessandro Longoni, Peter Bescapè. Da lunedì torna Alessandro Milan, da parte mia un saluto a tutti voi, naturalmente subito GR24 e tutti gli aggiornamenti sull'attualità. A presto. We'll be right back.